In un'epoca dominata dalla tecnologia scientifica e in particolare nel mondo occidentale, il sogno è per lo più guardato con sospetto, cioè lo si considera inutile, oppure viene indagato in un'ottica di profezia per realizzare vincite oppure lotterie. Nell'era ipermoderna, la tendenza è di sottovalutare il potere del sogno, oppure ignorarli per le forti emozioni che talvolta portano con sé o fanno emergere. Storicamente si attribuisce a Freud la valorizzazione scientifica del sogno. Tuttavia, già Aristotele si era espresso a riguardo in tal modo. Non si potrà, a cuor leggero, né scartare con disprezzo l'interpretazione dei sogni, né avere in essa confidenza cieca. I sogni vanno considerati cause o simboli degli eventi, oppure coincidenze. Il più sagace interprete dei sogni è colui che possiede la facoltà di cogliere le rassomiglianze. Il sogno è un prodotto intermedio, poiché si colloca proprio alla soglia della coscienza, durante il processo dell'addormentarsi oppure dello svegliarsi. Cioè, il sogno compare quando la luce della coscienza sta per offuscarsi o quando sta per riprendere a vigilare. I sogni giungono a noi carichi di tutte le verità del passato, del presente e del futuro, ma svaniscono prima che nella coscienza canti il canto del gallo. Sono tuttavia reali e reali sono i loro messaggi, tanto che se li indagheremo adeguatamente li potremo comprendere.